Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il tempo atmosferico cambia bruscamente. Comincia a piovere anche con violenza e di sicuro non possiamo fermarci. Non ci sono ripari. Alla fine, anche uno dei due motorini, per quanto nuovo, si ferma. Sono Maurizio, sono un medico e vivo a Spoleto. Ho circa 60 anni. La nostra vita, per nostra intendo la vita di noi che viviamo in questa parte del mondo, quelli che appartengono a una cultura, a una società di tipo occidentale, si divide grosso modo in due parti, la parte feriale e la parte festiva, cioè dal lunedì al venerdì e poi dal sabato alla domenica. Oggi parliamo di uno di quei momenti lì, un sabato e una domenica, uno dei weekend più belli della vostra vita. Buongiorno a tutti, sono le 16:08 in punto, oggi finalmente splende uno splendido sole qui a Milano, è martedì 11 febbraio del 2013. Noi siamo in diretta come tutti i giorni e raccontiamo storie. La storia di oggi racconta di Maurizio e di Paola, che sono protagonisti di questa storia, ma soprattutto di questo weekend. Voi pensateci veramente 20 secondi. Sapete che il weekend è quell'ammasso di tempo, di ore, di giorni, due per lo più, due e mezza, a volte tre, in cui cerchiamo di comprimere tutto quello che vorremmo fare durante la settimana e che non possiamo semplicemente perché lavoriamo. Ecco, provate a spenderci 20 secondi in maniera molto semplice. Cercate di tirar fuori qual è stato il weekend più bello della vostra vita. Quello passato con la vostra compagna, con vostra moglie, con la vostra fidanzata, facendo col vostro fidanzato, marito, insomma, devo sempre girare al maschile e al femminile. Semplicemente il weekend che vi ricordate come il più leggero, il più divertente, il più allegro, il più bello. 349-238-6666. Voi siete qui Radio 24, al profilo Facebook del programma, voi siete qui R24, al profilo Twitter, altrimenti il mio semplicemente è Matteo Caccia. Un bellissimo weekend a Matera, scrive Liliana, alloggiati in un sasso ristrutturato. Ecco, basta un elemento, basta poco, basta essere stati in un sasso, come lo chiama lei, a Matera, per poter ricordare quei due giorni che in qualche modo, quando volete stare un pochettino meglio, tornate là con la mente, ci provate a pensare e dite, boh, magari anche questo weekend me lo sparo in questo modo. La storia di Maurizio di oggi ha un titolo. Delle storie che arrivano a voi siete qui, @radio24.it, alcune effettivamente hanno un titolo, ad altre ce lo troviamo noi, ad alcune semplicemente per alcune usiamo la prima riga, come si faceva. Con chi si faceva? Con i sonetti, giusto? I sonetti di solito avevano come titolo la prima riga della poesia. Aia, la sto, ci sto provando, Margherita, dai Margherita, dai, sei lì col tuo computerino, Google, sonetti, titolo sonetti. Comunque, dicevo, delle volte semplicemente diamo la prima parola, la prima riga come titolo, perché di un titolo abbiamo sempre bisogno, in generale nella vita e tanto più in questo programma. Maurizio ci aveva pensato lui, mandandoci un titolo che tutti noi trovavamo interessante, però fino alla fine della lettura del racconto diciamo, ma che c'entra questo titolo con la storia che parla di un weekend? Ebbene, il titolo della puntata di oggi è Il tuffo di Kundera, dove per Kundera si intende Milan, Kundera o Kundera. Visto che prima è esplosa una discussione in redazione, si dirà Kundera, che è il modo forse più comune, o Kundera, perché poi molti ricordano la famosa imitazione del pianista, di Stefano Bollani, in quando imita Battiato e canta "Sarà mai visto Kundera?". Quindi da lì ci facciamo trascinare, sarà Kundera o Kundera, chiunque lo sappia dove cade l'accento su questo nome. 349-238-6666, io credo sia Kundera, ancora, semplicemente. Sta di fatto, ve lo dico, non perché è una banalità, tenete a mente il titolo, Il tuffo di Kundera. Il tuffo di Kundera. Tenetelo bene in mente perché alla fine arriva. Io e Paola abbiamo deciso per il ponte del 25 aprile 1 maggio di regalarci un bel viaggio in Sardegna. Ci siamo state altre volte, ma mai in questo periodo dell'anno. I nostri amici ci hanno detto che in primavera è bellissima, che il profumo della macchia fiorita è intensissimo. Le spiagge sono deserte e si mangiano cose introvabili d'estate. Per fare una cosa alternativa, decidiamo di girarla in motorino. Sia io che Paola non abbiamo mai guidato una moto, ma il motorino 50, che cos'è se non una bicicletta con l'acceleratore? Mini zaino in spalla, treno da Torino a Genova, imbarco sul traghetto e in poche ore siamo a Porto Torres. Abbiamo già il nostro bel programma, bello e pronto. Da Olbia in autobus fino a Stintino, dove affitteremo i motorini. Prima tappa Stintino-Alghero, seconda tappa Alghero-Sassari, quindi Sassari-Stintino per un totale di circa 130 km. Il tutto da fare molto tranquillamente nei 5 giorni di vacanza sull'isola. Arrivati a Stintino prendiamo alloggio in un albergo-ristorante famoso per i piatti a base di aragoste, le più gustose di tutto il Mediterraneo. Siamo in vacanza e non badiamo tanto alle spese. Il giorno successivo ci precipitiamo all'agenzia dei motorini. Ce ne danno due, nuovissimi. Paghiamo la caparra e cominciamo a prendere dimestichezza con i mezzi, girando per le bellissime spiagge che circondano Stintino. Molti amici ci dicevano che la Sardegna è più bella in primavera che in estate e allora decidemmo di andarci, ma in maniera alternativa, affittando due motorini. Entrambi non hanno mai stato su una moto. L'aria primaverile, il sole, la luce dell'isola ci fanno pregustare una vacanza da sogno. Il mattino successivo partenza per Alghero, cercando le strade meno trafficate, quelle di campagna. Ci ritroviamo nei pressi di una vecchia miniera abbandonata e spettrale, dove veniamo inseguiti da un branco di cani randagi. Diamo tutto gas e fuggiamo spaventati. Il tempo atmosferico cambia bruscamente, comincia a piovere anche con violenza. E di sicuro non possiamo fermarci, non ci sono ripari. Alla fine, uno dei due motorini, per quanto nuovo, si ferma. Chiediamo aiuto a un automobilista di passaggio che molto gentilmente ci trasporta a casa sua in un paese vicino. Ci risolve il problema al motore e quando gli spieghiamo che stiamo andando all'avventura su un ciclomotore, ci appioppa un nome tratto da una nota trasmissione di avventura di quell'epoca, Jonathan, che espresso nella loro cadenza dialettale lo rende ancora più umoristico. Finalmente smette di piovere e ripartiamo. Arriviamo ad Alghero, ma il freddo e l'acqua presa nel viaggio hanno colpito e di notte Paola sviluppa una bella febbre. Siamo costretti a fermarci un altro giorno. Ormai il programma è saltato. Non ci resta che caricare i motorini sul treno che collega Alghero e Sassari e da qui a Stintino. Sono le 5 del pomeriggio. Non ci va di riconsegnare i motorini all'agenzia con un giorno di anticipo e quindi decidiamo di rifare un ultimo giro per Stintino. Chissà come, arriviamo nel piccolo porto turistico e ci avventuriamo sul pontile. All'improvviso, io che sono davanti, ho la sensazione che sia accaduto qualcosa di strano perché il motorino e Paola sono letteralmente scomparsi. Ritorno indietro e capisco che la presenza di un grosso cavo disposto trasversalmente sul pontile ha deviato la ruota in direzione del mare e nel giro di pochi secondi il motorino e la motociclista sono in acqua, affondati e non vicino al molo. Prima di riconsegnare i motorini decidemmo di fare un ultimo giro sul porticciolo di Stintino. Io andavo avanti, ma all'improvviso ho avuto come la sensazione che fosse successo qualcosa di strano. Forse non sentivo più il rumore del motore di Paola. Mi volto e vedo che sia il motorino che Paola sono sott'acqua, a qualche metro di distanza dal molo. Ma mentre il motorino va a fondo, Paola lentamente riemerge. Fortunatamente l'acqua è estremamente pulita e posso vedere quello che succede. Il motorino nuovo di pacca rimane sul fondo. Paola, che nuota poco e male, lentamente risale in superficie e comincia ad annaspare. Di corsa mi calo in acqua senza neanche il tempo di togliermi scarpe e giaccone e con una mano aggrappata ad una cima riesco ad afferrare Paola. Cerco di spingerla fuori dall'acqua, ma non avendo punti di appoggio e con il suo peso, che nel frattempo è raddoppiato grazie ai vestiti inzuppati, non ci riesco. Saremmo ancora lì se due persone che passavano per caso non ci avessero aiutato entrambi a risalire sul molo. Accompagno Paola in albergo, dove barcollante e gocciolante chiede, con un balbettio confuso al gestore, «Un whisky, prego!» Ritorno sul molo per cercare di recuperare il motorino affondato e dopo qualche tentativo infruttuoso ci riesco, grazie ad una specie di ancora costruita con ferri ritorti prestatimi da alcuni pescatori. A cena, con abiti asciutti ma senza scarpe perché ne avevamo portato un solo paio per alleggerire il bagaglio, eravamo seduti al ristorante a mangiare un'ottima aragosta. Il giorno successivo riportiamo i motorini all'agenzia e spieghiamo quello che è successo, anche se in forma meno tragica. Persa la caparra ed intascato qualche improperio, ripartiamo per Torino. La vacanza sta per finire. E ora, proprio ora, vi direte, ma che c'entra Milan Kundera in tutto questo? Perché scomodare il nome dell'illustre scrittore cecoslovacco in un'avventura di coppia? Ebbene, c'entra perché la borsa che l'intellettuale della coppia portava a tracolla conteneva anche il libro di Milan Kundera, Lo scherzo, comprato 24 ore prima. Libro che, nonostante sia stato amorevolmente asciugato, ancora oggi, viste le ragguardevoli dimensioni raggiunte, viene orgogliosamente mostrato agli amici come l'unica copia in pergamena esistente al mondo. Anche se hai chiuso il cuore per ferie, dai retta a me, ci sono cose più serie di questi litigi così futili. Abbracciami e prendila così. E non è chiaramente Maurizio il protagonista della fotografia che trovate sul nostro sito radio24.it, alla pagina di Voi Siete Qui, dove trovate molto altro, ma trovate soprattutto la foto che vi racconto ogni giorno in questo parte di programma. Non è lui, chiaramente, è una donna ed è, immagino, sia Paola, la sua compagna, protagonista della storia, che è in una posa e in una foto strepitosa. Sembra una foto di scena di un film di Godard. Lei è all'interno di un'automobile che si vede appena perché è giusto il riquadro del finestrino, però è, immagino, una vecchia automobile. Lei ha la testa leggermente appoggiata al montante dell'automobile, una mano fuori, gli occhi socchiusi e uno splendido sorriso sulle labbra. Pronto, Maurizio? Ciao, Matteo. Come stai? Sto bene, bene. Nonostante la voce un po' bassa, sei raffreddato? È un po', malattia di stagione. Senti, non sei tu, è Paola, giusto, la protagonista della foto, ho indovinato? Sì, la protagonista è lei. Quella è una foto di qualche anno successivo, ma insomma non c'è tanti anni di differenza. Che macchina era quella? Scusa quella la curiosità. È un Porsche 924. Cioè tu avevi un Porsche 924? Sì, nell'88. 89. E scusami, il Porsche 924 era quello un po' diverso dal... Non ne capisco poco. Ma non era un Porsche vero e proprio, era quel Porsche col muso molto piatto e con i fari che venivano su. Ah, ok, che per uno che ne capiva poco sembrava tipo un po' una Ferrari Porsche, cioè col muso che andava giù a punta, ma giusto? Insomma, i veri Porscisti la guardavano molto male. Certo, perché per il Porscista è la 911 e basta, giusto? Già, esatto. Senti, mi diceva Margherita, che ha chiacchierato con te, che Paola, la coprotagonista della storia insieme a te, non c'è più. No, purtroppo un poco più di un mese fa mi ha lasciato. Ah, ok, quindi insomma immagino sia un momento difficile per te questo, Maurizio. Sì, abbastanza. Dopo quanti anni? Circa 40 anni e mezzo, circa. Quanti anni hai tu, Maurizio, scusami? 60, diciamo, 60. Ok, quindi la storia quando risale? La storia risale all'aprile dell'86. Quindi no, praticamente 28 anni fa. Quasi 30 anni fa, ok. Sì. Quindi eravate, insomma... Noi abitavamo a Torino, cioè lavoravamo a Torino a quell'epoca. Sì. E decidemmo per quella primavera di fare un viaggio in Sardegna in maniera un po', diciamo, non tradizionale. Ok. Avevamo saputo che a Stintino affittavano dei motocicli, dei motorini, praticamente quelli soltanto con l'acceleratore. Sì, sì. E quindi arrivavamo lì con la nave, poi con un autobus, affittammo il motorino e partimmo per un giro di 4 giorni attorno alla, diciamo, nella parte alta della Sardegna. Avevate quanto? 30 anni praticamente, perché se erano quasi 30 anni fa. All'incirca, esatto. Più, sì. Ed era più una vacanza da adolescenti che da trentenni, però, quella con i motorini in giro per la Sardegna. Ma per noi era una cosa alternativa, insomma, non così. Era una cosa... Probabilmente era il periodo dell'anno che non era quello giusto, certo. Perché beccavamo tanta acqua, poi ci successero vari problemi. Ecco, scusami, a proposito delle disavventure, io sai che non ho capito benissimo la dinamica con cui Paola è finita in mare. Cioè, allora, c'è un molo, giusto? C'è un molo abbastanza stretto, sì. Perché non so se tu sei mai stato a Stintino, c'è un porticciolo molto bello. Sì. Con questo molo che sarà, diciamo, 3 metri di larghezza. Dopodiché c'è il mare. Certo. Fortunatamente era inverno, era aprile, quindi di barche non ce n'erano tante, perché non credo che l'estate sia così vuoto quel molo. Per cui c'era un cavo, come ce ne sono tante volte sui moli, dei cavi che attraversano il molo e vanno in acqua. Sì. Io devo ancora capire a che cosa servono. Comunque, se ce l'hanno messi, qualcosa, sì, a qualcosa serviranno. Probabilmente Paola ha accelerato per superare il cavo, ma invece il cavo è stato abbastanza, diciamo, forte, per cui ha deviato la ruota verso il mare e praticamente lei è volata in acqua. Cioè proprio completamente, lei è il motorino. Completamente, sì. E non tanto vicino, perché io poi, quando mi sono accorto che non c'era più dietro di me, sono tornato indietro, lei stava a più di 3 metri dal molo praticamente, e ho visto andare giù il motorino, lei sott'acqua, insomma, era inverno, quindi avevamo ancora i giacconi e tutto, con la borsa a tracolla, e poi piano piano è risalita. Scusami, il motorino poi dice che chiaramente il tizio che l'affittava non era abbastanza imbufalito, perché chiaramente non partiva più. Cioè, non è che gli abbiamo detto come era successo realmente, altrimenti ci avrebbe inchiodato. Abbiamo detto che si era adagiato dalla sabbia sulla spiaggia, era adagiato sul mare. E si era bagnato. Si è arrabbiato un po' di più, perché non l'abbiamo portato subito, l'abbiamo portato il giorno dopo, 12 ore circa. E invece quando quindi succedono queste cose, il motore, certo, va lavato immediatamente. Com'è che l'avete tirato fuori sto motorino? Anche quella dinamica non è chiarissima. Non sapevo cosa fare. In quel momento quasi era più importante il motorino che Paola. Infatti Paola torna in albergo da sola. Sì, certo. Infatti la scena del un whisky prego me la son persa. Perché lei arriva in albergo e chiede un whisky? Completamente bagnata, cioè tutta vestita, immagina, con i capelli bagnati, il giaccone bagnato, esca tutto bagnato, e chiede il whisky prima di andare su in camera. Io invece mi sono affrettato a trovare ho trovato una specie di ancora, sai quei ferri ritorti che usano i carpentieri per fare le costruzioni, insomma, dalle case? Sì. Ecco, ed erano, sei riuscito a agganciarlo? Tale, esatto, l'ho tirato in acqua, su. Okay. L'ho agganciato e l'ho trainato sotto. Maurizio, tu sei in pensione adesso? No, diciamo che lavoro ancora. Ci siete più tornati in Sardegna? Siete più tornati a Stintino? In Sardegna sì, a Stintino no, però. Ok, vabbè, insomma, quindi quel luogo rimane il luogo del tuffo di Kundera. Come... Guarda, la cosa bella di questa storia è che per parecchio tempo è rimasto un tabù per noi, cioè non ne parlavamo per niente. Ma tra di voi o con gli altri? No, tra di noi e con gli altri. Non abbiamo mai parlato per almeno 3-4 anni. Poi piano piano, con la storia del tuffo fuori stagione, così, è venuto fuori piano piano, e poi ci abbiamo anche riso. E l'avete esorcizzato? All'inizio l'abbiamo vista molto più sul lato tragico. Immagino. Un incidente. Poi invece è venuta fuori la parte comica, insomma. Maurizio, senti, io ti ringrazio per la storia e per la chiacchierata, e in qualche modo, insomma, spero che, visto che è così vicina, è da pochissimo che è mancata Paola, spero che in qualche modo questa storia sia un modo per salutarla. L'avevamo scritta insieme, quindi era giusto che fosse raccontata. Che venisse raccontata, esatto. Maurizio, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto, a presto. Ciao, grazie. Intanto al 349-238-6666 non sono arrivati molti aiuti riguardo alla pronuncia di Kundera o Kundera, però sono arrivati appunto dei weekend passati. Alcuni dicono il miglior weekend è stato quello dopo il matrimonio, invece altri dicono non si possono raccontare. Io invece voglio chiudere la puntata di oggi dandovi un appuntamento a domani, che è una puntata particolare perché è uno dei mercoledì live di Voi Siete Qui. Abbiamo mandato in onda tra le due canzoni, il secondo brano di oggi era di Bruno Rissas, che domani sarà dal vivo qui a Voi Siete Qui per i mercoledì live di Voi Siete Qui, appunto. E intanto sul nostro profilo Facebook, che è Voi Siete Qui Radio 24, abbiamo appena pubblicato il video di Marco Gabue che racconta l'ultimo live in cui ci sono stati Mauro Ottolini e i Sousaphonics ospiti. Mauro Ottolini con i suoi suoni e con la splendida voce della sua cantante. Quindi l'appuntamento è domani, sempre alle 16, in diretta con Bruno Rissas dal vivo, di cui poi produrremo ovviamente un video che vi posteremo ricorderemo sui nostri profili social. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Pietro Lacorte, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Io vi ricordo che potete ascoltarci in diretta alle 16, in replica la mattina alle 5, in podcast scaricandolo gratuitamente dal sito di Radio 24 oppure in streaming attraverso tutte le app. Grazie soprattutto a Maurizio. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Alessandro di Vagambolò e la storia di domani è la mia e parla di un'ansia da palcoscenico. Questa è la mia storia e io sono qui.